mai più. Nessun pianeta o splenda la luna. Stendi la mano alle crini fortuna, stendi la mano alle crini fortuna.